America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. And I rolled up to these 2x4s and I tried to get some of the people, and God love them, you know, to help me across the gap. And it was a huge gap. It was probably half the size of one of these tables here. And finally this woman just looked at me and said, "He's all broken here. Everything broken here. Go home." L'avete capito, è un comico che fa una battuta, ve la racconto rapidamente, perderà forse lo spirito nella traduzione, ma in sostanza dice, beh, insomma, in ogni paese la gente è sempre molto carina, cortese con gli stranieri, qua in America se qualcuno si trova sperduto si fanno in quattro per aiutarlo, dice invece in Russia, perché è della Russia che stiamo parlando e vedremo perché, in Russia è tutto un po' diverso. Dice, stavo passeggiando per questa strada che era tutto rotto, c'erano dei buchi, c'erano delle voragini per strada piuttosto ampie, a un certo punto chiedo aiuto, chiedo indicazioni e questa signora mi dice, qui è tutto rotto, ma vattene a casa. E dunque così comincia questo spettacolo a Caroline sulla Broadway, dove si sono esibiti per uno spettacolo comico che ha dei risvolti tragici e vedremo poi perché, oltre a John Huckabee, una serie di altri importanti, grandi, noti comici americani. E arriviamo dunque a raccontarvi il perché di questa serata. Sentiamo che cosa ha da dire innanzitutto Blake Cabot. I think this is brilliant because for years I've heard several dreary conversations about Russian political future. It's fine, it's best to make a joke of it. Ecco, Blake dice, abbiamo sentito per anni delle cose terribili sul futuro politico della Russia e dunque forse la cosa migliore in questa drammaticità è magari di scherzarci sopra. Ecco, è uno scherzo molto particolare in realtà, perché questa serata è dedicata alla memoria di Paul Klebnikov, il giornalista americano di Forbes che è stato ucciso 7 anni fa a Mosca. I mandanti ancora non li conosciamo, l'omicidio è irrisolto. La serata è stata organizzata da Musa Klebnikov, la moglie di Paul Klebnikov, che ha costituito il Paul Klebnikov Fund proprio in memoria del marito. Musa Klebnikov, di origine italiana, fiorentina, pensate che una sua antenata fu addirittura l'amante di Byron, ed è con noi ai microfoni di America 24 per raccontarci un po' la sua storia e un po' l'idea di questa commedia nata dalla tragedia. Buongiorno Musa. Buongiorno Mario. Uno spettacolo di comedians da Caroline's a Broadway e 49. Puoi dirci perché hai organizzato questa cosa? Allora, io dirigo una fondazione che è stata creata quando mio marito Paul Klebnikov è stato assassinato. Lui era giornalista in Russia, amava molto la Russia, voleva avanzare la professione giornalistica in quel paese e abbiamo creato questa fondazione per aiutare i giornalisti in Russia. Quest'anno abbiamo dato il premio a una giovane giornalista che si chiama Katia Kronhaus, che usa molto un tocco comico nei suoi articoli. Allora, con questo tema abbiamo detto, via, andiamo, facciamo una cosa, una serata comica e parliamo un po' del ruolo della commedia in Russia, nel giornalismo e nel discorso nazionale, o piuttosto la mancanza della commedia. Vorrei tornare su quella che è poi l'origine, la radice di questa tua causa straordinaria, e cioè quella giornata terribile in cui ci fu questo assassinio di Paul. Quando questo è successo e tu ti sei trovata improvvisamente vedova con dei bambini piccoli. Un grande soggetto, come uno prende una morte importante, ma per me era la necessità di spiegare a loro che il padre che loro amavano non verrebbe mai più a vederli e anche di essere una brava madre senza il ruolo del padre accanto. E la più piccola aveva 4 anni e lei ha detto: "Non è giusto che Dio abbia preso mio padre perché non l'ho avuto per molto tempo." Comunque la seconda preoccupazione era, diciamo, di sicurezza, perché era stato assassinato, come abbiamo scoperto dopo, da dei ceceni, e avevo paura. Ecco, ricordiamo la storia, perché Paul era un giornalista straordinario, aggressivo, un uomo intelligentissimo, un americano, perché Paul è nato in America, è andato a scuola in America, è cresciuto qui, ma di origine russa. I nonni scapparono quando ci fu la rivoluzione, quindi lui è tutto americano, ma con questo grande animo russo, per cui, seguendo vicende internazionali per Forbes, fu inviato a Mosca e cominciò a gestire anche la pubblicazione russa di un'edizione russa di Forbes. Ed era molto provocatorio, perché a Mosca faceva giornalismo all'americana, che non è quello che è più apprezzato, diciamo, da coloro che sono, tra virgolette, in controllo. E una tristissima mattina qualcuno lo ha aspettato, gli ha sparato e lo ha ucciso. E dopodiché ci furono delle inchieste e ci fu il Dipartimento di Stato che si interessò. Ecco, che cosa si è saputo da allora ad oggi? C'è stata una lunga serie di avvenimenti illegali nelle tribunali. Comunque varie persone sono state arrestate, hanno avuto varie fasi di tribunale di varie tipi, ma in conclusione sono stati lasciati liberi senza nessuna giustizia, e ora il caso in teoria dovrebbe essere riattivato, ma non mi pare che ci sia molto interesse. Ecco Musa, quando è successa la tragedia, tu hai avuto, come ci hai detto, ovviamente un problema, la tua prima preoccupazione è stata quella dei bambini. Ho pensato che se loro odiassero la Russia perché era la causa della morte del loro padre, odierebbero un po' loro padre, odierebbero se stessi, avrebbero una vita avvelenata dall'odio, e ho voluto girare la cosa sul positivo, che loro potrebbero essere fieri di se stessi, del loro padre e anche delle loro radici russe. E allora questa fondazione fondamentalmente è nata da un desiderio di creare un legame positivo. Musa, il governo americano ti ha aiutato, ha cercato di darti una mano, hai avuto degli incontri con Hillary Clinton, sei stata in Russia, hai visto Putin. Ecco, alla distanza, qual è il tuo rapporto con la Russia? C'è qualche speranza perché ci sia più libertà o no? Prima di tutto gli americani sono stati utilissimi, molto, molto bravi, e mi sono molto appoggiata su di loro. I russi hanno dovuto trattare con guanti bianchi perché Paul è considerato un eroe in Russia, sì che lì non possono trattarci male e si pretende che le cose avanzano anche se non avanzano. A livello di futuro io spero che i miei figli si sentano, sono fieri di essere un po' russi, però anche molto contenti di essere americani, che non sono obbligati ad andare a vivere lì. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Nel suo ultimo tour John Bon Jovi ha fatto il pieno di spettatori, incassando oltre 12 milioni di dollari al botteghino. Si è piazzato così al primo posto dei concerti più caldi della stagione americana. Ascoltiamo uno dei suoi successi, John Bon Jovi, It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!